ad alta voce. Anna Maria Guarnieri legge Cime tempestose di Emily Bronte. Traduzione di Margherita Giacobino. Quando Heathcliff si ripresentò la volta seguente, Isabella si trovava per caso in cortile e stava dando da mangiare ai piccioni. Da 3 giorni non aveva più rivolto la parola a sua cognata, ma allo stesso tempo aveva smesso di agitarsi e di lamentarsi, e ne eravamo tutti molto sollevati. Sapevo che Heathcliff non aveva l'abitudine di sprecare un solo gesto o una parola gentile con la signorina Linton. Ora, non appena la vide, la sua prima precauzione fu di buttare uno sguardo di ricognizione alla facciata della casa. Io ero alla finestra della cucina, ma mi ritrassi subito per non essere vista. Allora lui attraversò il cortile, la raggiunse e le disse qualcosa. Lei sembrò imbarazzata e ansiosa di andarsene. Per impedirglielo, lui le mise una mano sul braccio. Lei girò la faccia dall'altra parte. Sembrava che lui le facesse domande alle quali lei non voleva rispondere. Ci fu un altro rapido sguardo alla casa e poi, credendo che nessuno lo vedesse, quel mascalzone ebbe l'impudenza di abbracciarla. «Giuda traditore!» gridai. «E sei anche un ipocrita, vero? Un bell'impostore!» «Chi c'è, Nelly?» disse la voce di Catherine al mio fianco. Ero stata troppo intenta a osservare quei due là fuori per accorgermi del suo ingresso. «Il suo ignobile amico!» rispose accalorata. «Quell'infido farabutto laggiù! Ah, ci ha viste! Sta entrando! Mi chiedo se sarà tanto bravo da trovare una scusa plausibile per fare la corte a Isabella, dopo aver detto a lei che la odia.» La signora Linton vide Isabella svincolarsi dall'abbraccio, correre nel giardino, e un minuto dopo Heathcliff aprì la porta. Io non potei impedirmi di sfogare in qualche modo la mia indignazione, ma Catherine rabbiosamente mi intimò il silenzio. «A sentirti la gente penserebbe che sei tu la padrona», gridò. «Hai bisogno di essere rimessa al tuo posto, Nelly. Heathcliff, dove vuoi arrivare provocando tutta questa agitazione? Ti avevo detto di lasciar stare Isabella. Ti prego di farlo, a meno che tu non sia stanco di essere ricevuto qui e non desideri che Linton ti chiuda la porta in faccia.» «Dio non voglia che ci provi», rispose quell'anima nera. In quel momento lo detestai. «Che Dio lo mantenga sano e paziente. Di giorno in giorno aumenta la mia voglia di spedirlo in paradiso.» «Zitto!» disse Catherine, chiudendo la porta interna. «Non farmi arrabbiare. Perché non hai fatto quello che ti ho chiesto? È stata lei a mettersi di proposito sulla tua strada? Che te ne importa a te?» brontolò lui. «Ho il diritto di baciarla, se le piace. E tu non hai il diritto di fare obiezioni. Io non sono tuo marito. Non hai bisogno di essere gelosa di me.» «Io non sono gelosa di te», replicò la padrona. «Mi preoccupo per te. Non fare quella faccia. Non voglio vedere quello sguardo minaccioso. Se ti piace Isabella, la sposerai. Ma ti piace? Di la verità, Heathcliff. Ecco, vedi? Non rispondi. Sono sicura che non ti piace. E il signor Linton approverebbe il matrimonio di sua sorella con quest'uomo?» chiesi io. «Il signor Linton approverà», replicò la mia signora con fermezza. «Può risparmiarsi il disturbo», disse Heathcliff. «Faccio benissimo a meno della sua approvazione. E per quanto riguarda te, Catherine, è il caso che ti dica un paio di cose adesso, mentre siamo in argomento. Voglio che tu ti renda conto di avermi trattato in modo infernale. Infernale. Mi ascolti? E se ti illudi che io non me ne sia accorto, sei una stupida. E se pensi che io mi accontenti di qualche parolina dolce, sei un idiota. E se credi che io soffra senza vendicarmi, ti convincerò del contrario, e molto presto. Nel frattempo, grazie per avermi rivelato il segreto di tua cognata. Giuro che ne farò buon uso. E tu non ti mischiare.» «Che nuova piega sta prendendo il tuo carattere?» esclamò la signora Linton esterrefatta. «Io ti ho trattato in modo infernale e tu ti vendicherai. E come lo farai? razza di bruto ingrato. Non voglio vendicarmi di te, rispose Heathcliff con minore veemenza. Non è questo il mio piano. Il tiranno schiaccia i suoi schiavi, ma loro non si rivoltano contro di lui. Se la prendono con quelli che stanno sotto di loro. Tu puoi permetterti di torturarmi a morte per puro divertimento, ma consentimi di divertirmi un po' anch'io, allo stesso modo. Ma cerca di non insultarmi se puoi. Se immaginassi che desideri davvero che sposi Isabella, mi taglierei la gola. Ah, il male è che io non sono gelosa. È così? Gridò Catherine. Bene, non ti offrirò una seconda volta una moglie. Sarebbe come offrire a Satana un'anima perduta. Litiga con Edgar, se ti fa piacere, Heathcliff, e inganna sua sorella. Avrei trovato proprio il modo più efficace per vendicarti di me. Conversazione finì qui. La signora Linton sedette accanto al camino, rossa in viso e cupa. Il fuoco interiore che l'animava stava diventando ingovernabile. Non riusciva a dominarlo né a controllarlo. Lui, in piedi davanti al focolare, con le braccia conserte, rimuginava i suoi malvagi pensieri. E fu così che li lasciai, per andare a cercare il padrone, che certo si stava domandando che cosa mai trattenesse Catherine di sotto così a lungo. «Ellen», disse quando entrai, «hai visto la signora?» «Sì, è in cucina, signore», risposi. «È molto amareggiata per il comportamento del signor Heathcliff, e a dire il vero sarebbe ora di dare un'altra piega alle sue visite». E gli raccontai la scena in cortile, accennando, per quanto osavo, alla disputa che ne era seguita. Edgar Linton faticò a starmi a sentire fino alla fine. Le sue prime parole rivelarono che non riteneva sua moglie del tutto innocente. «Questo è intollerabile», esclamò. «È vergognoso che lei lo consideri un amico e mi imponga la sua compagnia. Fa venire due uomini dalla sala comune, Ellen. Catherine non deve attardarsi oltre a discutere con quell'infame mascalzone. Sono stato troppo indulgente con lei, ma ora basta». Scese, ordinò ai domestici di aspettare nel corridoio e si diresse in cucina dove io lo seguì. Qui i due avevano ripreso la loro rabbiosa discussione, o perlomeno la signora Linton stava di nuovo parlando in tono acceso, mentre Heathcliff si era avvicinato alla finestra e se ne stava a testa china, apparentemente intimidito dai suoi rimproveri. Fu lui a vedere per primo il padrone e le fece un rapido cenno perché tacesse, e lei obbedì bruscamente, scoprendo la causa dell'avvertimento. «Che cosa significa questo?» disse Linton, rivolgendosi a lei. «Ti sembra decoroso restartene qui dopo quello che ti ha detto questa canaglia?» «Hai origliato dietro la porta, Edgar?» chiese la signora in tono volutamente calcolato per provocare suo marito. Un tono che esprimeva al tempo stesso indifferenza e disprezzo per la sua indignazione. Heathcliff, che aveva alzato gli occhi alle parole di lui, scoppiò in una risata sarcastica, probabilmente allo scopo di attirare su di sé l'attenzione del signor Linton. Ci riuscì, ma Edgar non aveva intenzione di assecondarlo dando in escandescenze. «Finora sono stato tollerante con lei, signore», disse con calma. «Non che non fossi al corrente della sua degradazione morale, ma ritenevo che ne fosse responsabile solo in parte. E poiché Catherine desiderava mantenersi in rapporto con lei, ho acconsentito stupidamente. La sua presenza è un veleno morale che contaminerebbe i più virtuosi. Per questo motivo, e per prevenire conseguenze ancora più spiacevoli, d'ora in poi io le proibisco di entrare in questa casa ed esigo che se ne vada immediatamente. Ancora 3 minuti e sarò costretto a rendere la sua partenza involontaria e umiliante». Heathcliff misurò l'altezza e le spalle del suo interlocutore con uno sguardo di derisione. «Cathy, questo tuo agnellino minaccia come un toro», disse. «Rischia di spaccarsi il cranio contro i miei pugni. Per Dio, signor Linton, sono mortalmente spiacente che lei non sia degno di essere messo al tappeto». Il mio padrone lanciò un'occhiata verso il corridoio e mi fece segno di far entrare gli uomini. Non voleva azzardare uno scontro personale. Io obbedì al suo cenno, ma la signora Linton, sospettando qualcosa, mi seguì e quando tentai di chiamarli, mi tirò indietro, sbatté la porta e la chiuse a chiave. «Bei sistemi», disse, in risposta allo sguardo di rabbioso stupore di suo marito. «Se non hai il coraggio di affrontarlo, fa le tue scuse o riconosciti sconfitto. Ti servirà di lezione per esserti finto più coraggioso di quanto non sei». Non c'era bisogno di usare le maniere forti per far star male il padrone. Cercò di strappare di mano la chiave a Catherine e per sicurezza lei la gettò nel fuoco, proprio nel mezzo delle fiamme. E allora il signor Edgar venne assalito da un tremito nervoso e si fece mortalmente pallido. Si appoggiò allo schienale di una sedia e si coprì la faccia. «Santo cielo! Nei tempi antichi questo ti sarebbe valso la nomina a cavaliere!» esclamò la signora Linton. «Su, tirati su! Nessuno ti farà del male. Non sei un agnellino. Sei un leprotto non ancora svezzato. Le mie congratulazioni per questo codardo senza sangue nelle vene, Cathy», disse il suo amico, «e i miei complimenti per il tuo buon gusto. Questa creatura tremante e sbavante sarebbe l'uomo che mi hai preferito. Non lo toccherei nemmeno con un dito, ma mi darebbe una bella soddisfazione prenderlo a calci. Sta piangendo o sta per svenire dalla paura?» E quell'individuo si avvicinò e diede una spinta alla sedia su cui Linton si appoggiava. Avrebbe fatto meglio a mantenere le distanze. Il mio padrone si rialzò rapidissimo e gli sferrò un colpo alla gola che avrebbe steso a terra un uomo meno robusto. A lui tolse il fiato per un minuto e mentre si riprendeva, il signor Linton uscì in cortile dalla porta posteriore e da lì raggiunse l'entrata principale. «Ecco, hai finito di venire qui!» gridò Catherine. «Vattene adesso! Lui tornerà con un paio di pistole e una mezza dozzina di uomini. Se ha sentito quello che stavamo dicendo, non ti perdonerà mai, è ovvio! Bel guaio che mi hai combinato, Heathcliff! Ma vattene, sbrigati! Preferisco veder messo alle strette Edgar piuttosto che te. Credi che me ne vada con quel colpo che mi brucia sul gozzo? Tuono a lui? Per l'inferno no! Gli spaccherò le costole, lo schiaccerò come una noce marcia prima di oltrepassare quella soglia. Se non lo stendo adesso, prima o poi lo ucciderò. Perciò, se ci tieni alla sua vita, lascia che metta le mani su di lui». «Lui non viene», li interruppi, inventando una piccola bugia. «Ci sono il cocchiere e i due giardinieri. Non vorrà aspettare di farsi buttar fuori da loro. Hanno un bastone ciascuno. E il padrone probabilmente starà a guardare dalle finestre del salotto». I giardinieri e il cocchiere c'erano, infatti, ma con loro c'era anche Linton. Erano già entrati nel cortile. Heathcliff ci ripensò e decise di evitare di battersi con i tre tirapiedi. Afferrò l'attizzatoio, fracassò la serratura della porta interna e riuscì a fuggire mentre gli altri entravano. La signora Linton, che era in uno stato di estrema agitazione, mi ordinò di accompagnarla di sopra. Non sapeva che parte avevo avuto nell'incresciosa vicenda e io ero ansiosa di mantenerla nell'ignoranza. «Sono frastornata, Nelly!» esclamò gettandosi sul sofà. Un migliaio di martelli mi picchiano tutti insieme nella testa. Dì a Isabella di starmi lontana. Tutto questo finimondo è successo per causa sua. E se lei o chiunque altro dovesse farmi arrabbiare ancora di più, io impazzirei. E Nelly, dì a Edgar, se lo rivedi stasera, che c'è pericolo che io mi ammali seriamente. Mi auguro che sia proprio così. Mi ha sconvolta e amareggiata in un modo incredibile. Voglio spaventarlo. Bene, se non posso avere Heathcliff per amico, se Edgar decide di essere meschino e geloso, cercherò di spezzare loro il cuore spezzando il mio. Io non volevo spaventare suo marito, né dargli altri dispiaceri, al solo scopo di soddisfare l'egoismo di lei. Perciò, quando incontrai il padrone mentre veniva verso il salotto, non gli dissi nulla. Mi presi invece la libertà di tornare indietro per sentire se avrebbero ricominciato a litigare. Cominciò lui a parlare per primo. «Resta dove sei, Catherine», disse. E non c'era rabbia nella sua voce, ma soltanto un doloroso stupore e sconforto. «Non intendo rimanere. Non sono venuto né per litigare né per fare la pace. Voglio solo sapere se, dopo i fatti di questa sera, tu intendi continuare la tua stretta amicizia con...» «Oh, per carità!» lo interruppe la padrona pestando i piedi. «Per carità! Non parliamone più. Non c'è modo di riscaldare il tuo sangue freddo, nelle vene ti scorre acqua ghiacciata. Ma le mie stanno ribollendo e la vista di tanta freddezza mi fa impazzire. Se vuoi liberarti di me, rispondi alla mia domanda», insistette il signor Linton. «Devi rispondere. Le tue furie non mi impressionano. Ho scoperto che sai controllarti come chiunque altro, se ti fa comodo. D'ora in poi vuoi rinunciare a Heathcliff oppure vuoi rinunciare a me. Non puoi stare dalla mia parte e dalla sua allo stesso tempo. E io esigo assolutamente di sapere chi scegli». «E io esigo di essere lasciata sola», proruppe furente Catherine. «Lo pretendo. Non vedi che quasi non mi reggo in piedi? Edgar, tu, vattene!» Suonò il campanello finché la corda si ruppe. Io entrai senza affrettarmi. Linton sembrava atterrito. «Non è il caso di preoccuparsi», bisbigliai. Non volevo che gliela desse vinta, pur non potendo evitare in cuor mio di essere spaventata. «Ha del sangue sulle labbra», disse lui rabbrividendo. «E con questo?» rispose acidamente. E gli raccontai che lei, prima del suo arrivo, aveva deciso di esibirsi in una crisi di nervi. Imprudentemente feci il mio resoconto a voce alta e lei mi sentì. Balzò in piedi, i capelli sciolti sulle spalle, gli occhi fiammeggianti, i muscoli del collo e delle braccia tesi e induriti in modo innaturale. Mi preparai a qualche osso rotto, come minimo, ma si limitò a guardarsi intorno per un attimo. Poi si precipitò fuori dal salotto. Il padrone mi ordinò di seguirla, cosa che feci fino alla porta della sua camera, ma lei mi impedì di andare oltre, chiudendomi la porta in faccia. La mattina dopo, visto che non accennava a scendere per colazione, andai a chiederle se voleva che gliela portassimo di sopra. «No», rispose perentoria. La stessa domanda venne ripetuta per il pranzo e per il tè, e di nuovo la mattina seguente, e la risposta fu sempre la stessa. Il signor Linton, da parte sua, passò il tempo in biblioteca e non chiese mai notizie di sua moglie.